rifa de él. Sí, hombre, la rifa bien. También ve por ahí cositas también. Claro. Genio, genio, genio, sei basso, basso, ti ascolto appena, cambio. Non si capisce niente, sei in mezzo al QRM, genio, genio, comunque ti saluto. Ciao amico mio, sei in mezzo al QRM e ho difficoltà a capirti, cambio. Genio, genio, sicuramente sarai in barra mobile, visto il segnale, però sei scomparso, non ti sento più. Quindi dai, ci sentiamo appena il segnale migliora, dai. È proprio, sei in mezzo al QRM, non riesco a capirti, amico mio. Oi, oia. Dai, adesso magari, non so se sei fermo o ti stai spostando. Una baracca, riuscire a capirti, yes. Sento solo il beep finale e cambia e basta, il resto non si capisce. Vabbè dai, faccio QRX e rimango in ascolto, vediamo un po' se magari ci possiamo sentire in una situazione migliore, dai. Vabbè, ho sentito solo ciao. Dai, un abbraccio genio. Ok, un abbraccio, dai. Chi è che bussa? Avanti. Si qualifichi. Capa Rosmetro, sì. Luca, sì. Luca, sì. Già ti capisco. Buonasera. Io ho fatto la prova con la mia PC, l'ho fatta parlare da qua. A casa, andò bene. Non ti ho capito, hai fatto una prova? Ho fatto la prova, no? Fuori va bene a casa. Ah, ho capito, ma adesso dove sei? QTH ufficiale o dall'altra parte? K Roger, ok. Ah, boh, io adesso ti sto ascoltando bene. Ah, proprio qua. Quindi hai risolto il problema con l'antenna? No, negativo, mi è rimasto anche la radio, solo con KK. Ho capito. Ah, sicuramente ha a che fare con quello che ti stava dicendo Giulio l'altra volta riguardo all'antenna che hai, visto che è un'antenna da imbarcazione, è probabile che non riesci a farla rendere al meglio perché è proprio concepita per un utilizzo diverso. Sicuramente Mario non rende qua, perché Mario rende sul tetto. Sì, se è un'antenna fatta per barra nautica, insomma, sarà per quello sicuramente. E poi dopo sistemare la mano, perché sui canali audio stazionati. Ma sulla stazione quella ufficiale. Sì, vabbè, allora. Guarda, Calvi. Tornato, sì. Sì, già, Calvi, io ti sento, non so. Tu, sono anche il PMR, aspetta che... perché qualcuno ha fatto. Ma tu oggi? Attenzione, tiro. Attenzione, canale 10, cambio. C'è qualcuno su 10? 10. Hola. C'è qualcuno su 10? 10. Hola. 1, 2, 3, prova. Cambio. Ora. attenzione, binario 10, cambio. Che la rimma in cue. Ui, Gianni doppio room, buonasera. Che buonasera, chi è? Buonasera Gianni, ben ascoltato. Che si fa Arima lunga. Positivo. E da dove ne sei uscito? Che non ti avevo più sentito. E allora, tutto bene. Gappa dai, mi ho acceso un attimo che stiamo uscendo a fare un po' di spesa. Stavo uscendo con il portabile, come mi ascolti Gianni? Sì, già portabile, sì, già ti ascolto bene sempre, dai, sempre. Quello lì che cos'era? Il seminanove? No, negativo, sempre il Jackson qua. Aspetta un attimo. E tu come mi ascolti, carissimo, sempre in pizzeria, sì. Già l'ho cambiato, come vedere l'uscita del pizzeria. Ho detto, sempre in pizzeria stai lavorando. E questo come lo ascolti? Cambio. Beh, già, molto chiaro. Non sono venuto ascoltando tu, io sono con l'attività della macchina, però ho dato controllo di attività. Ma dove sei? A casa? La casa mia. Ma quella canna che c'è sul tetto cosa ne fai? Adesso volevo smontare. E la piazzi da te? Ho fatto mettendo una cosa, una dei marca. Cavagava. Ho capito. Beh, perché è un peccato, è sempre agli tempini, non la stai usando. Adesso non è molto, adesso è arrivato quel tempo, non ha scelto tutta quanta. Diamo contro il segnale. Aspetta, non vuole sapere perché sono sdraiato. Non li così. Prova, sapete. Guarda poggia. E sei 9:10 radio 5 a Bomboletta. Va bene. Dove abiti adesso? In che zona? Sono a livello tuo, sono là. Cava. Sì, va bene. Quella radio lì va bene. Non pensavo che te la stessi vendendo quella radio. No, negativo. Dunque sono in zona via Manzoni, va. Gianni, ti devo salutare che la famiglia mi chiama qua, guarda, la fa un po' di spesuccia. Allora, che ci sentiamo più tardi, se non ci vado le prossime. Va bene, Salvino, dai, buona serata, dai, tante cose belle. Ciao.